K! Non esiste nessun K, è morto da più di 40 anni. Cosa? È morto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Bla bla bla bla bla bla bla, bla. Vabbè, comunque la settimana che sta finendo è stata in qualche modo cosa, comunque rispetto al bla bla bla. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Allora, la settimana che sta finendo, K, è stata in qualche modo la settimana dei bambini. Ma tu sai che quelli che dicono in qualche modo io li ammazzerei. Addirittura, sì. Sei diventato uno di quei tipi noiosi che ti fulminano se dici un attimino, se dici queste parole che non vanno bene. Hanno ragione, che un attimino fa schifo, in qualche modo fa schifo. Vabbè, però in qualche modo riempie bene la frase, è utile nell'esposizione, no? Sì, ma prova a non usarlo, no? Vedrai che poi le frasi vanno bene lo stesso. Vabbè, allora ci provo. Allora, dicevo che la settimana che sta per finire è stata, da un certo punto di vista... Ma non puoi, scusami, adesso tu togli in qualche modo e infili di nascosto da un certo punto di vista. Ma non puoi dire la stessa frase senza usare frasi di quel tipo lì. Allora, la settimana che sta per finire è stata la settimana dei bambini. Oh, hai visto? La frase ha senso, comunica quello che volevi comunicare non ha delle... Però se vai a vedere, questa settimana è stata la settimana di tante altre cose, il terremoto, lo scandalo in Vaticano, l'arresto dei calciatori. Le storie dei due bambini che volevo raccontare sono in qualche modo meno importanti, capito? Se io metto in qualche modo attenuo un po' il tenore della frase, che sennò è assolutistico, apodittico, quindi bersaglio facile di chi ci aspetta al varco per farci le pulci. Ma non parlava di te. Le pulci hai le goccine che si mettono sotto il pelo, dietro il collo, perché sennò lui si lecca, hai capito? Devi mettergliele qua. Certo. Allora, alla fine volevo solo sottolineare come si sono distinti due minorenni questa settimana. Sì. Uno è il sedicenne Shuria Ray, di origine indiana ma abitante in Germania, che è riuscito dopo 350 anni a risolvere un quesito matematico posto da Isacco Newton e che nessuno era mai riuscito a risolvere. C'è riuscito lui, che è ancora uno studente. Applauso. Bravo. Bravo. Bravo Shuria Ray. Come si chiama? Non so. Qual era il quesito? Era calcolare esattamente una traiettoria, per esempio quella di un proiettile, tenendo conto della resistenza dell'aria e della forza di gravità. Prima di Shuria erano calcoli che i computer facevano solo con buona approssimazione. Adesso, dopo Shuria, esiste una formula che aiuterà le polizie scientifiche di tutto il mondo a calcolare con precisione matematica da dove è partito un colpo di pistola e altre amenità simili. Tu la formula la sai? Comunque c'è una ragazzina ancora più piccola di Shuria che ha messo in imbarazzo i banchieri ma anche i politici del Canada. Di lei si è parlato molto. Ricordiamo che si tratta di Victoria Grant, una bambina canadese che a Filadelfia, durante un incontro del Public Bank Institute, ha detto ovvietà pesantissime contro le banche private che stanno strozzando l'economia canadese, e così ha fatto star zitti tutti per la chiarezza dell'esposizione, per la sensatezza di quanto diceva. Erano ovvietà, però nessuno li aveva mai dette in faccia. A chi? Have you ever wondered why Canada is in debt? Have you ever wondered why the government forces Canadians to pay so many taxes? Have you ever wondered why the bankers from the largest private banks are becoming wealthier and the rest of us are not? Beh, ma che figata, scusa, una ragazzina di 13 anni che parla a un convegno di un istituto bancario. Ma questo è il bello dell'America, Drago. Qui in Italia, quando si vuol fare gli originali e dare la parola ai giovani, si invitano, che ne so, Matteo Renzi, la Serracchiani. Pensa come siamo messi. Adesso c'è anche Civati. È vero. E non dimenticarti di Love of My Life. Beh, giovane, insomma, con tutto quello che ha visto. Aspetta. Qua. Contando. Quanti cuori ci sono? Contali. Tre. Benissimo. Ci sono tre cuori. Quanti rettangoli ci sono? Quattro. Benissimo. Ci sono quattro cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. Quattro. Prova ancora. Quanti quangoli ci sono? Tre. Prova ancora. Quanti ci sono? Uno, due, tre, quattro e cinque. Questa è la risposta esatta. Ci sono cinque. Nere, mi viene in mente Cocchi e Renato. Mi viene in mente Cocchi e Renato. Vabbè, sarà mi canzone. Vengono in mente. No, ma loro non sono juventini. No, quindi non sono. Allora, cos'hai tirato fuori questa roba qui? Prago, ho voluto far pace con i tifosi juventini che questa settimana hanno intasato la posta di Radio 24 per protestare contro alcune nostre frasi anti-juventine o presunte tali, perché in realtà noi con la Juve proprio. Infatti, però tu sei andato a prendere per farti perdonare dai tifosi un inno di 30 anni fa, 40 anni l'inno fa. L'inno della Juve, no? Ma no, ma ai tempi di Boni è che questo era l'inno della Juve. Anche ai tempi di Altafini. Altafini, non vabbè, so, ma Furino. Conte, Drago, il pensiero. Cosa devo vabbè, comunque, fare? Il buon Conte non può ancora dire che cosa farà l'anno prossimo perché ha la spada di Damocle sulla testa. No, beh, sulla testa c'è la parrucca. La spada di Damocle del calcio scommesse. Io se fossi Agnelli farei presto a risolvere il problema. Manderei via Antonio Conte e prenderei Paolo. Paolo Conte? Ad allenare la Juve. Ma sì, tanto da Asti in treno ci mette mezz'oretta. Va bene. Andare capito, a Torino, via Vinovo, dov'è che sono? Capito, ma Paolo Conte al massimo riscrive l'inno della Juve, mica può allenarla. Sarebbe la Juve. Buona idea, sarebbe già qualcosa, scusa. Fa schifo quello vecchio. Ma è l'inno di 30 anni Ho fa, capito. Adesso ce n'è uno nuovo. Perché ce n'è uno nuovo. Eh sì. E com'è? E adesso lo facciamo. Si capisce? Si capisce? È abbastanza. Chiedo asilo! Cazzo cazzo, culo culo, vaffanculo, vaffanculo. Fra poco, servizio pubblico ricomincia. Beh, che lancio! Bel servizio pubblico, ma che come? Viene lanciato. No, è proprio quello che ci vuole, Drago. Cazzo cazzo, culo culo, vaffanculo, culo, cazzo vaffanculo. Cazzo, servizio pubblico. E quindi stasera io spero che replichi con un'altra trovata di queste. Sennò noi Chiedo Asilo siamo un po' orfani delle litigate, ti ricordi? Ci vuole questa cosa, chissà cosa insomma, potrebbe dire. Anno zero si menavano lì a servizio pubblico sulle sedioline, sono tutto un po'. Vuol dire, se arriva Sansovini, Sansonetti, insomma, quel comunista che va buono per tutte le stagioni. È il comunista che adesso se la prende con i giudici. Allora lui è arrivato lì, aveva la sua scaletta, me la devo prendere con i giudici. Tra gli ospiti c'era tipo Ingroia, quindi è andata benissimo. E il matitone Sansonetti si è divertito un casino a dire le cose un po' provocatorie e poi guardare in camera sorridente verso Travaglio che invece non lo cagava, è stato tutto dritto. Per cui cominciare una trasmissione con cazzo cazzo, culo culo, vaffanculo, vaffanculo. Fra poco servizio pubblico ricomincia. Ecco, ricomincia stasera, sì. Beh, un attacco fantastico. Bene, ha lanciato benissimo la sua trasmissione. Ma sai penso perché? Anche, Perché da un po' di tempo che a servizio pubblico non è che litighino tantissimo. No, ormai il Fight Club di anno zero, si è un po' perso. Sì, vige ormai una specie di moderazione diffusa. E quindi Santoro ha lanciato ai suoi ospiti questa provocazione. No, cioè, parolacce, mandiamoci a fanculo. E ricominciamo a fare i Fight Club. Però stasera dovrebbe attaccare con qualcosa di nuovo. Cioè, non può di nuovo cazzo cazzo culo culo. Possiamo suggerire qualche altro attacco tipo tette figa figa tette figa ecco